Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! Il giorno in cui il Movimento 5 Stelle porta in aula la legge per dimezzare gli stipendi dei parlamentari, i deputati del PD parlano rispettivamente di democrazia ateniese, suffragio universale, Virginia Raggi, congiura di Catelina e Alexandre Dumas. Proprio una roba straordinaria. E poi bastava anche vedere i loro volti, che erano piuttosto colmi di vergogna. In quest'aula fatta alla rovescia, le persone che non si sono mai tagliate un euro di stipendio accusano coloro che lo fanno di essersi tagliati poco. E quindi a Renzi diciamo: vieni in aula e di al tuo partito di votare sì, perché il Movimento 5 Stelle questo trattamento lo adotta da 3 anni e mezzo in Parlamento e ha fatto risparmiare 18 milioni di euro. Presidente, l'aspettiamo. Volete voi oggi tagliarvi, dimezzarvi l'indennità e rendicontare in trasparenza tutto quello che sono i soldi che i cittadini italiani vi affidano? E oggi banalmente basta un sì. Beh, signori, avete comprato i popcorn, perché oggi alla Camera pare ci sia uno spettacolo non indifferente, come già dalle voci di Di Battista, Di Maio, Lombardi, insomma tutti del 5 Stelle, che hanno fatto questa proposta di dimezzare gli stipendi dei parlamentari, una proposta che avrà le gambe molto corte, molto corte. Già ieri se ne è discusso alla Camera, oddio, discusso, ieri era lunedì, ieri era lunedì, quindi alla Camera non ci sono votazioni, per cui si arriva alla spicciolata in 50, in 60, con calma. Da oggi pare ci sarà anche Beppe Grillo che ha convocato tutti: venite alla Camera. Vabbè, un po' di show. I popcorn ci sono, la Coca-Cola per chi vuole la Coca-Cola, la birra anche se di primo mattino magari non è il massimo. Forse uno di quei giorni in cui la nostra Flavia Perina rimpiange il fatto di non essere più parlamentare, non lo so. Flavia? Ogni mese, ogni 27 del mese lo rimpiango, poi però il giorno dopo me lo scordo. Arriva il 27 lo stipendio? Ma non lo so, il 30 adesso non mi ricordo, però più o meno, diciamo, la data mitica in Italia è il 27, quindi ho detto il 27, oggi magari sarebbe, arriva il 30. Oggi sarebbe bello però rientrare un attimo in Parlamento e farci una bella cronaca dal di dentro. Urla, io sì, mi aspetto tutto, sì, urla, oggi, capelli tirati. Non è tutto che lo faccia. Sì. Beh, no, urla, capelli tirati, no, sarà... No, peccato. Sarà uno show... A me dispiace, perché questo tipo di spettacoli poi già gli italiani insomma sono piuttosto disamorati della politica, diciamo, esatto. Ci manca solo questa. Sì, ci manca solo questa. Va bene, insomma, insieme a Flavia Perina voglio salutare Federico Novella dal suo TG4, buongiorno. Buongiorno a tutti, come va? Non fare finta di essere sveglio, che adesso tu lavori alla sera, sono un privilegiato come i parlamentari, diciamo così. Esageriamo. Oggi c'è una spettacolare intervista di Nicolò Ghedini, il più assente alla Camera, letto, anzi letto. Al Senato, e inizia così: E allora? Gelido, gelido Ghedini. Ma scusi, strano, lei, per lui. Sì, sì, lei tradisce il suo mandato. Questa considerazione è buffa, sa? È tutta così l'intervista, spettacolare. Perché non vado, perché alla Camera si fa solo fiction. Si fiction, detto, fiction, no? Si schiacciano i pulsantini, si vota tic tic tic tic, si fa fiction Ghedini. Beh, guarda, chi vuole fare fiction fa fiction. Alla Camera chi vuole lavorare, lavora, perché io Ghedini lo no, fatto. Per esempio. Ghedini fa un altro lavoro, quello fa l'avvocato, fa l'avvocato, ma è questi... Il punto appunto è di questo genere di persone. Eccola là. Dai, no, ma giusto, apriamo il Parlamento. Chi lavora, chi no, come negli uffici. Esatto, ci sono gli invocati. Di Roma, c'è quello che sta allo sportello e c'è quello che sta a prendere il caffè. Certo, noi il caffè qui lo prendiamo al Parlamento. Oh, attenzione, piovono, a proposito di soldi, soldi tagliati ai parlamentari, no, sì, forse, soldi che piovono a pioggia nella legge di stabilità. Allora, ci sono signore e signori, iniziano a scoprirsi alcuni dettagli. 500 euro per i comuni per ogni migrante che si beccano. E qui sono, si fanno dei begli affari, Federico? Se tu vuoi mettere su un comune così in un attimo. Vogliamo fare una società? Vogliamo fare un. Un comune prima devi fare. Un comune. Un comune. Senti, ma a me oggi mi fa riflettere quello che ho letto sulla verità. E cioè che in Romagna, sai che a ogni profugo accolto lo Stato fornisce alle cooperative i famosi 35 euro. Certo. In Romagna ci sono alcuni comuni. No, ci sono alcuni comuni che gli forniscono i buoni per il supermercato. Quale supermercato? Una cooperativa sarà. Le Coop. Gli danno i buoni per fare la spesa alla Coop. Certo, è meraviglioso. Non trovi che sia meraviglioso? Ma sì, bisogna integrarli giustamente. Tra l'altro si fa tutto in famiglia, capisci? Tra l'altro invece a Goro. Vabbè, sì. Qua siamo è il momento della balera. Siamo in Romagna, appunto. A Goro invece hanno fatto le barricate. Comunque le barricate è proprio perché c'è il prefetto che ha requisito un ostello e quindi la gente è scesa in piazza. 500 euro comunque a comune, mentre ci sono 50 milioni, signore e signori, per i lavoratori socialmente utili e i forestali della Calabria. Anche a questo giro, cara Flavia Penina, ce l'abbiamo fatta. Quello sempre, I mitici forestali della Calabria sono una tassa fissa che dobbiamo pagare. Esatto. E quindi diciamo inutile parlarne. È come l'IVA, è come l'IVA, è una cosa, diciamo, è una cosa che ci tocca. Esatto, 50 milioni. E poi ci sono 600 milioni per la campagna del grande De Luca. Queste sono babbarie, no, sinceramente. La prima una B solo, la seconda con due B. No, altro che babbarie, questi sono babbarie. 600 milioni cash. Ecco. Sei veramente un personaggetto. 600 milioni alla campagna. Se li hai guadagnati, dai, De Luca, se li hai guadagnati. Diciamo, uno dei più grandi governatori showman d'Italia, quello si dà da fare. No, la sensazione è che sia tutto un po' così, diciamo, chi si comporta bene viene trattato bene, chi si comporta meno bene viene trattato un po' meno bene. In politica è sempre così, è sempre così, diciamo che è uno standard, non c'è niente di nuovo, queste leggi mancia di fine anno sono fatte a questa maniera per premiare gli amici, in qualche modo punire i nemici. Diciamo, tutto questo era tollerabile negli anni in cui l'Italia era un paese dove ce n'era per tutti, insomma. Adesso che non ce n'è più per tutti comincia a diventare irritante. Ecco, ma fammi capire, Flavia, perché poi quando arriva in Parlamento la manovra, se arriva, ieri la Boldrini si è lamentata che non è ancora arrivato il testo, se ne discute, cioè di questi tipi di... Cioè, o vi passa tutto sopra anche questo? La manovra se ne discute molto in Commissione Bilancio. Considerate che è una torre di fogli di carta, credo alta 2 o 3 o 4 metri, diciamo, quindi ognuno va a vedere il pezzetto che gli interessa, come collegio elettorale, come regione, come interesse di categoria, chi in qualche modo difende i medici si fa vedere la parte della sanità, chi difende altre aree si va a vedere il pezzetto suo, però è molto difficile, anzi è quasi impossibile, proprio perché è una legge estremamente complessa, avere uno sguardo complessivo d'insieme. Devo dire che in questo senso l'attività di vigilanza dell'opposizione è un'attività molto importante. Sì. Io credo che ad esempio il movimento di Beppe Grillo forse avrebbe diciamo, farebbe meglio a concentrarsi sullo studio dei contenuti, come si faceva una volta all'epoca dei vecchi partiti. C'erano i partiti di opposizione, il PC, il MIS, che si mettevano là, avevano gli uffici studi e spulciavano la manovra fino all'ultima riga, sì. E poi magari ci costruivano sopra una battaglia d'aula. Invece adesso no, ora si combatte con l'Europa. Devo dire, io l'ho detto Federico, questa cosa sì. Mi appassiona come una partita di cricket del Bangladesh. Ieri sì, ho detto il curling questo. Alle Olimpiadi, esatto. Con le scopettoni sul forse ghiaccio. Un po' di più il curling, forse un po' di più forse un filo di più, esatto. però c'è questa storia dell'Europa, questa prova muscolare che Renzi sta facendo, dicendo ogni giorno pensino alla Vallonia, che uno dice ma che vuol dire, perché la Vallonia, regione del Belgio, ha bloccato un trattato importante tra Unione Europea e Canada, cioè pensino ad altre cose, noi abbiamo fatto una manovra perfetta, questo secondo sì. Il Corriere della Sera. Però l'Europa, che sappiamo bene che insomma l'Europa non si fa amare, specialmente da noi italiani, però qualche riserva soprattutto su queste prebende di cui hai parlato tu adesso. Soprattutto su come le copri, perché sai che ogni premio, ogni prebenda bisogna trovargli una copertura. Su questo ha effettivamente qualcosa da ridire. Ci ha fatto il favore di mandarci la famosa letterina, no? La famosa letterina, se non sbaglio, però la promozione o la bocciatura di questa manovra arriverà dopo il referendum. Esatto. Così, esatto. E questo insomma sì. È un discreto favore. Mi fa specie vedere che adesso, in questo momento, a conti fatti, l'Italia è un po' più vicina agli Stati Uniti che non all'Europa. O sbaglio? Direi di sì. E come ho letto qualcuno giustamente sul Daniel Gross, che è tedesco e lavora in Europa, dice: è come l'Italia in questo sbaglio, è come contestare l'arbitro. In questo l'Europa è l'arbitro. Questa frase, peraltro, Federico, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, un'altra vicenda della contestazione dell'arbitro. Ma è una non lo so, è un qualcosa che mi è rimasto qui nella mente da sabato. Ma non lo so. Avrei sognato qualcosa stanotte. Non lo so, deve essere successo dirti. Qualcosa sabato sera, rimane qualche traccia nella memoria. È successo che quando rubano un gol alla Juve è giustizia, equità, diciamo. Equitalia. Quando invece lo fa la Juve siamo dei ladri. Questo è il concetto di onestà che gira in questi giorni. Noi e l'Europa. Però questa cosa degli stipendi dei parlamentari l'abbiamo un po' accantonata. Sarà uno show, non succederà nulla. Verrà, sempre per usare metafore calcistiche, verrà fatta un po' di melina, o come si dice a Roma, verrà buttato tutto un po' in caciara. Però Brunetta, devo dire, il Brunetta del giorno oggi non è male. Il Brunetta del giorno, Brunetta si è messo lì alla Camera ieri e ha detto la sua proposta. Occorre prevedere una norma che sia capace di adeguarsi alle diverse situazioni, introducendo un parametro che si lega al proprio al reddito percepito fino al momento dell'assunzione di una carica pubblica. E la domanda sorge spontanea: e per chi non aveva un reddito, e per chi era disoccupato, e il reddito di cittadinanza? Io direi di introdurre il reddito di cittadinanza per chi non aveva reddito e era disoccupato una volta eletto al Parlamento, e non suoni come dileggio o altro. No, lo dico seriamente. Lo dice seriamente. Però Flavia Perina, la proposta è questa: si guadagni, se si fa il parlamentare, quello che si guadagnava prima di entrare in Parlamento. Questa è la proposta. Cioè, tipo Berlusconi dovevamo dare 1 miliardo al mese. Più o meno sì. Effettivamente più o meno a Berlusconi così. Non ci avevo pensato. Berlusconi aveva 1 miliardo al mese e l'operaio della Thyssen che è entrato in Parlamento 1.300. E il disoccupato reddito più di cittadinanza, domeniche, sì. Più le domeniche, sì, esatto. È disoccupato, 400 euro di reddito di cittadinanza. Ma dai, questa è veramente la fiera delle stupidaggini. È una fiera delle stupidaggini. In tutta Europa i parlamentari hanno una retribuzione, si prende la media europea, gli si dia quello che gli si dà in tutta Europa, che probabilmente è una media equa in qualche modo. Dopodiché dobbiamo anche evitare che fare il parlamentare diventi poi il rifugio dei disgraziati, perché un professionista, una persona magari che ha un suo curriculum, una sua competenza, eccetera, se gli dai 2.500 al mese non è che lascia un posto di ingegnere, di avvocato, di medico, eccetera, per venire a fare le leggi in Parlamento. E diventerà appunto l'arena dove discutono ragazzini o ex disoccupati. Eccoli. Però, insomma, questo senso che che fare la politica dovrebbe essere un qualcosa di... Fare la politica è qualcosa di gratuito, si può fare politica. No, magari certo, non gratuito, ma che deve portare a un senso civico. Anche gratuito, che porta a un senso civico, eccetera. Ma io ci ho lavorato in Parlamento. Qua, il punto vero è ottenere una resa in qualche modo dai parlamentari, collegare magari gli stipendi alla presenza e all'attività politica. Quando ci lavori è un lavoro da 10 ore al giorno, estremamente scomodo per molti parlamentari fuori sede, lontano dalla loro città, che comporta, ma insomma, vogliamo delle, quando un medico bravo, un ingegnere bravo, un architetto bravo sono ben pagati perché lavorano tanto, dovrebbe grosso modo funzionare allo stesso modo per i parlamentari, anche in Parlamento. Certo. Dovrebbe essere così. Va bene, dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo. Abbiamo uno dei nostri ascoltatori all'estero, oggi ci ha messo, mi mette a dura prova, ma per il luogo in cui si trova, per la pronuncia, ma abbiamo ovviato anche a tutto questo con i grandi e potenti mezzi di 24 mattino, e tra poco vi svegliamo tutto, anche la rubrica, ovviamente, lo psicologo di D'Alema. Milan, a me non interessa il traffico, mica i tuoi pali. Bella la proposta di Renzi di pagare in base alle presenze. 37% di stipendio di Maio, benissimo. Pensa quando Renzi andrà a prendere il suo stipendio, ci vedrà in fondo 50 euro. Alessandrino, rassegnati, lo sa anche la zoppa di Montenero che le province rimarranno per altre 4-5 regiologiche. Ciao! Allora non avete capito qual è il problema. Quando D'Alema era piccolo... E gli strappavano i giocattoli di mano, gli facevano le prepotenze. Il dato di fatto è ciascuno si tiene i propri endorsement, c'è chi si tiene D'Alema e chi si tiene Obama, sono punti di vista. Devo dire che questa cosa dello psicologo di D'Alema, anche i nostri ascoltatori si stanno poi cimentando. Ecco, secondo il nostro ascoltatore in segreteria, evidentemente il problema di D'Alema è che gli rompevano i giocattoli da piccolo. Ma tra poco ci arriviamo, siamo con Federico Novella e Flavia Perina, oggi psicologo e psicologa. Tra poco, sapete, c'è questa rubrica. Federico, tu non ci ascolti più al mattino perché tanto, ma facciai questa rubrica. Ne ho sentito parlare. Abbiamo delle idee ben precise in materia. Allora ce le dite tra un attimo. Prima però voglio salutare un nostro ascoltatore dall'estero, perché noi li andiamo a scovare. Loro ci scrivono una mail a 24mattino@radio24.it e noi li andiamo a convocare per sapere cosa succede. Oggi devo fare una premessa. Siamo in Germania, siamo in una località difficile da pronunciare. Allora, noi abbiamo dei mezzi potentissimi nella nostra redazione. Nello specifico abbiamo la nostra Elisabetta Fusconi, che parla un perfetto tedesco e ci dice da dove chiama il nostro amico. Biberach an der Ries. Sì, sì. Carlo. Biberach an der Ries. Sì, Carlo, buongiorno. Buongiorno. È corretta buongiorno questa pronuncia? Corretta. Corretta. Che voto diamo alla nostra Elisabetta Fusconi? Probabilmente il suo tedesco è davvero migliore del mio. Davvero? Carlo, che ci fai in questo... Biberach an der Ries. Ecco, che ci fai, Carlo, lì? Ci lavoro e ci vivo con la mia famiglia. Ma che fai di lavoro, insomma? Mi occupo di acquisti in un'azienda elettromedicale. Vabbè, fai questo. Ma niente, il normale impiegato, diciamo così. Normale impiegato, però nel rigore tedesco. Ci guardate, esatto. Ma anche tu adesso ci guardi con questi occhi un po' da maestrino che ci dici... No, assolutamente, no. Ci mancherebbe. No, nel senso che guardi i conti italiani, dici questi italiani non rispettano mai le regole, sei già entrato anche tu nel mood tedesco. Non lo so, prima quando vivevo in Italia guardavo a sud e dicevo non rispettano i conti. Adesso mi sono spostato a nord, continuo a guardare a sud e dico non rispettano i conti. Quindi più ti sposti a nord, più guardi a sud e ti lamenti che non rispettano i conti. Non rispettano i conti. Carlo, e che dici dalla Germania? Di che si parla in Germania, al di là dei conti dell'Europa? Allora, ti dirò, Biberach è diventata famosa adesso in Germania, perché per la discussione sul CETA, che hai citato prima, sì. C'è stato il commissario europeo, che comunque è un tedesco, che parlando con Sigmar Gabriel, che è un signore dell'opposizione dell'SPD, A un certo punto ha interrotto la discussione dicendo: vabbè, ho capito, ma di questo CETA chi dobbiamo far decidere? L'unione delle parrocchie di Biberach? Così ha detto, l'unione delle parrocchie, quindi Biberach è diventata famosissima località, che vedi, sentiamo un attimo Rico come si pronuncia esattamente. Biberach an der Riss. Ecco, esatto. Flavia Perina, non so, tu puoi cimentarti in questa località dove vivi. No, assolutamente, io passo. No, comunque ti dico, a parte il nome impronunciabile, è un posto veramente, cioè, ricchissimo, ma soprattutto in mezzo al nulla. In mezzo al nulla. Per spiegartelo, immaginati Lissone. Lissone, nel giro di 40 km e hai Biberach. Lissone, per chi non la conoscesse, Federico Novella la conosce alla perfezione, va a comprare immobili a Lissone. Sì, è qua dietro casa. In Brianza, in Brianza. Ecco, e il nostro Carlo è andato lì, in questa località, quella lì, insomma, e ci ascolta da lì 24 mattino. Carlo, noi ti mandiamo un abbraccio e ti ringraziamo, siete la nostra ricchezza all'estero. Grazie a voi, ascolto tutte le mattine e salute a tutti. Grazie, da Biberach. An der Riss, più o meno, quella roba lì. Ma, Biberach an der Riss. Ecco, appunto, va bene. Flavia Perina, allora, devo far ascoltare il D'Alema del giorno. Siete Vai. Pronti con lo psicologo Vai, di D'Alema? Pronti. Ecco, vorrei una musica un po' di sottofondo, effettivamente. Allora, qui bisogna spiegare. D'Alema ha chiesto anche scusa poi, dopo questa uscita. Era un convegno, non sapeva di essere ripreso e ha parlato dei casini e dei vecchi così. Ho visto dei sondaggi che a una certa età si rincoglionisce, si diventa ricchi. Lo dice anche il Corriere della Sera. Così. Cosa succede a una certa età? Niente. Arrivederci. Quando si accorge il giornalista, cosa succede? Scusi, niente. Arrivederci. Flavia Perina, dottoressa Perina, psicologa di D'Alema. Ci dica qual è il problema di questo uomo. Ma D'Alema non è che ha un problema, D'Alema è romano e dell'Ariete, e quindi diciamo bisogna trovargli più una collocazione astrologica, secondo me, che psicologica. L'Ariete è una persona tranquillina, però che a un certo punto vede sto drappo rosso davanti e niente. Quindi è un problema, è dell'Ariete. Problema è anche romano c'entra molto, perché non resiste alla battuta, cioè D'Alema non ci resiste, non ce la può fare, come... quasi tutti i romani che molto spesso nella vita si sono rovinati per una battuta che esce fuori la devi dire. Vabbè, quindi è romano e dell'Ariete, questo è un po' il problema psicologico, secondo è più un problema anche da la Paolo risorsa, Fox, anche la risorsa da... in molte circostanze, perché poi il romano dell'Ariete c'ha anche tante risorse, molto spesso. È chiaro. Caro collega, nel senso collega di dottore, Mica. Collega psicologo di Flavia Perina, concorda con questa analisi, con questa anamnesi, che dice? Concordo in linea di massima, non so se dipenda più dall'influsso di Saturno e dei pianeti di Terra, ma io darei più una spiegazione psicologica invece. Credo che sia un classico caso di sindrome persistente cronica da rosicamento. Ma è questo che spinge D'Alema alla gaffe ultimamente. È sindrome una cosa persistente cronica da... Da rosicamento. Eh sì. Per cui gli stanno anche gli agnolotti così di traverso. Lì un po' io lo capisco, Flavia, un po' si capisce quando uno butta l'agnolotto che gli arriva la... Io non ho questa idea del rosicamento. Ho l'idea di una persona che ha un'altissima considerazione di sé che ovviamente è animata da un qualche tipo di spirito vendicativo, più per il rosicamento, che è una cosa più profonda. Vabbè, i nostri psicologi non concordano sull'analisi della psicologia, della psiche di D'Alema. Però mi devo fermare e vi devo ringraziare, Flavia Perina e Federico Novella al TG4 oggi alle 19, giusto? 19. Ciao. Biberach an der Riss. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti appunto alla lettura dei quotidiani. Questo è lo spazio della rassegna stampa di 24 mattino. e insieme a Carmelo Lauricella in regia. Ma dove abbiamo rottamato l'Alpino? Licenza matrimoniale. No, non diciamo dove, non diciamo dove, però insomma, sarà in giro per il mondo a fare il piccioncino, Va bene, Carmelo Lauricella in regia, anche il nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Siamo pronti, via! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 25 ottobre, intanto i titoli, le aperture, il Sole 24 Ore apre sulla sanatoria delle cartelle. Ecco quanto si risparmia. Il decreto fiscale è in vigore da ieri ed entro il 22 gennaio la domanda Equitalia per la rottamazione delle cartelle. Poi noi e l'Europa. L'Europa deciderà dopo il voto i conti italiani ai ministri europei il 5 dicembre, Corriere della Sera. Mentre la Stampa, braccio di ferro con l'Unione Europea, l'Italia aumenta i tagli per evitare il richiamo. Questo è il titolo di prima pagina per il giornale. Eurogendarmi a Roma, aria di troica. Il Messaggero, manovra le richieste di Bruxelles. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre se saltiamo su Repubblica troviamo la questione migranti. Migranti e record di sbarchi, il Viminale, siamo al collasso. Questo è il titolo di prima pagina di Repubblica. Mai più la giungla, apre così Avvenire sullo sgombero di Calais, anche l'unità Calais, lo sgombero nel cuore d'Europa, questo è il titolo di prima pagina. Mentre sempre sull'immigrazione, ma in un altro modo, Libero, chi non salva un profugo è un omicida, i nostri marinai indagati per non essere riusciti a evitare il naufragio di un barcone di immigrati. Il titolo di Libero, o meglio il sottotitolo, è L'Italia si sputtana. Mentre La Verità apre con una vicenda che riguarda il prezzo, la battaglia del grano. La Turchia ci ruba gli spaghetti. Troppo frumento importato, i coltivatori protestano, a rischio 300.000 imprese, e Ankara, dunque la Turchia, ci insidia nella vendita di pasta nel mondo. Allora, oggi, tra l'altro, avremo ospite alle 8.25 Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, prima firmataria di questo disegno di legge che oggi appunto verrà discusso alla Camera. Ieri c'è stato un antipasto, ma essendo lunedì non si vota con calma, non c'erano tanti parlamentari alla Camera. Oggi invece si vota sul taglia stipendi e è promesso anche una buona dose di spettacolo, perché Beppe Grillo ha convocato tutti quelli del 5 Stelle, sarà una, come dire, uno show in aula e fuori dall'aula davanti al Parlamento. La proposta del Movimento 5 Stelle è una sforbiciata del 50% dell'indennità con la riduzione della diaria annessa, 50% degli stipendi, e si è discusso molto. Guardate, non succederà nulla, nel senso che è quasi scritto che verrà rinviata a data da destinarsi questa proposta di legge. Camera sul taglia stipendi e battaglia in aula Movimento 5 Stelle PD, così il Messaggero, ma anche la Stampa dedica una pagina a questo. Il taglio delle indennità, Forza Italia stretta tra Grillo e i democratici. Il Fatto Quotidiano una pagina, oggi si vota sugli stipendi degli eletti, melina del PD. Repubblica, Grillo sfida il PD, tagliamo gli stipendi. Ogni giornale dedica a questo un articolo, una pagina. Il Corriere fa di più, interviste, un'intervista di quelle da non perdere. Niccolò Ghedini, avvocato di Berlusconi, recordman di assenze al Senato. Senatore Ghedini, lei è il senatore che accumula più assenze. E allora? Risponde così, gelito. Di cosa dovrei provare vergogna, scusi? Ora le spiego. Così inizia l'intervista di Fabrizio Roncone a Niccolò Ghedini, pagina 7 del Corriere. Allora, premesso che a mio avviso non contano le presenze, ma la capacità di incidere qualitativamente sulla vita politica del paese, dico subito che la proposta dei grillini è come sempre piena di demagogia. Ma neppure la risposta polemica di Renzi tiene. Lui propone di pagare i parlamentari in base alle presenze. Se uno sta nel partito a studiarsi una legge? E se un altro invece a fare un comizio sul territorio, questi non li vuoi pagare? Lei quando è assente cosa fa di preciso? Guardi, io ogni giorno e anche più volte al giorno sento il mio presidente Berlusconi e lui, d'intesa col capogruppo Romani, mi ha concesso la possibilità di fare politica fuori dal Parlamento. Ma, e chiede Roncone, trovo che non partecipare ai lavori parlamentari tradisca il suo mandato. Questa è una considerazione buffa, lo sa? Risponde Ghedini. Lei la trova buffa, ma certo. Ora mi tira fuori questa idea un po' balzana della nostra democrazia. No, dico, mi sembra sia noto che quando i parlamentari italiani vanno a votare è già tutto deciso. Il capogruppo fa un gesto con la testa e ordina «Votiamo sì, votiamo no». I parlamentari, che spessissimo non sanno neppure cosa stanno votando, si limitano ad alzare il ditino, pigiano diligenti il tasto e poi tornano a sonnecchiare, a leggere il giornale, a guardare l'iPad, a scrivere SMS, a telefonare. Quel voto elettronico è una fiction politica. Insomma, così Ghedini smonta il lavoro parlamentare dalla A alla Z. Ora si arriva anche alla questione stipendio e lui dice «Io già scrissi a Gianfranco Fini, e all'epoca presidente della Camera, spiegandogli che non mi sembrava accettabile cumulare più redditi». E gli chiesi perciò di sospendere l'erogazione a mio favore di ogni indennità. E Fini mi rispose che poteva accogliere la mia richiesta per quel che riguardava i rimborsi, ma non per lo stipendio, essendo questo espressamente previsto in Costituzione. Quindi lei continua a incassare. Il verbo incassare di per sé è abbastanza sgradevole, risponde Ghedini. Comunque sì. Incasso, ma poi lo utilizzo socialmente. Faccio beneficenza, anche se dovrebbe essere la beneficenza silenziosa e nascosta. E qui, non con un colpo di tosse, finisce l'intervista a Niccolò Ghedini sul Corriere della Sera, pagina 7. La trovate. A proposito di soldi, invece, signori, questa signora, Angela Vargas, di Genova, 60 anni, raccontata la sua storia sul Corriere della Sera, pagina 18, lei di soldi ne ha trovati, ma sono vecchi, sono lire, sono carta straccia. Rassettando e mettendo a posto la camera e la casa di sua mamma, ha trovato tra varie cianfrusaglie, eccetera, pacchetti con 100... no, non 100 milioni, 37 milioni di vecchie lire. Insomma, un bel 20.000 euro. Ma Angela e i milioni di lire in soffitta per la banca sono carta straccia. Ha incaricato un legale, ma sarebbe scaduto, è scaduto il termine. Entro il febbraio 2012 potevano essere convertiti e quindi è andata da un avvocato per cercare di capire se la Cassazione sul tema del recupero crediti stabilisce che il termine decennale deve partire dal momento in cui il titolare può far valere il proprio diritto. E quindi dovrebbe scattare da giugno questo decennale, chissà. Comunque ha trovato in un cassetto 37 milioni di vecchie lire. La sua storia raccontata sul Corriere della Sera teme che possano essere considerate solo carta straccia. E va bene. A proposito sempre di soldi che tutto legano, la verità da qualche giorno, in un'inchiesta di Giacomo Amadori, sta cercando di capire se il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha smentito seccamente, abbia o meno ricevuto dei soldi, come raccontano al quotidiano alcuni testimoni. Oggi Giacomo Amadori torna su questa vicenda, mogli, figli, nipoti, le gare d'appalto ai tempi di Tavecchio, tutto ruota attorno alla figura di un ex arbitro di Serie A, Bruno Di Cola, 66 anni, abruzzese. Secondo i testimoni che hanno detto questo alla verità, questo Di Cola, in veste di consulente assicurativo della Lega Nazionale Dilettanti, all'epoca in cui era presidente Tavecchio, avrebbe pilotato le gare, incassato provvigioni e girato una parte del guadagno all'amico Carlo Tavecchio, che, ripeto, ha smentito assolutamente. Comunque, nei giorni scorsi, tre fonti hanno detto la verità, raccontato che dietro alle gare per l'assegnazione dei contratti di assicurazione dei tesserati della Lega Nazionale, e si tratta di 1.300.000 persone, quindi tanti iscritti, c'è stato un vorticoso giro di denaro e tra i beneficiari di questo denaro ci sarebbe anche il presidente Tavecchio. Oggi la verità torna su questo tema, sulle parentele che ci sono e le gare d'appalto ai tempi in cui Tavecchio era presidente della federazione. A pagina 5 della Verità trovate questa puntata, ennesima puntata di questa inchiesta, mentre soldi, soldi, soldi, piovono soldi per tutti, come sempre, grande tradizione, anche quest'anno i lavoratori socialmente utili e i forestali della Calabria sono stati beneficiati di 50 milioni di euro nella legge di stabilità. Tranquilli, ogni anno ce n'è, ogni anno ce n'è. Non ce n'è per tutti, ma lì arrivano sempre. Eccolo qui Gian Antonio Stella, è l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul volante, se siete alla guida. Lo scandalo dei forestali con Paletta e Secchiello. Paletta e Secchiello, per mettere in sicurezza la terra più esposta d'Italia al rischio idrogeologico, i forestali calabresi sono dotati degli strumenti di un bambino in spiaggia. Basti dire che al suo arrivo, 6 mesi fa, il nuovo commissario straordinario trovò un esercito di 5.887 uomini e 3 ruspe. 3! Tutte e 3 fuori servizio. Chiese allora una panda. Mancava l'assicurazione. A dispetto di spese per circa 200 milioni nascoste in un bilancio intenzionalmente impenetrabile. Un bilancio 10 volte più pesante di quello dei forestali del Veneto. Questa volta non ci saranno picchetti, non ci saranno occupazioni. Il governo Renzi, scrive Stella, grazie al presidente della Calabria Oliverio e alla delegazione parlamentare PD, ha inserito in legge di stabilità 50 milioni per i lavoratori socialmente utili. Ah, mi devo correggere, e 130 per i forestali. Mi ero fermato ai 50, sono 180 milioni. La deputata Enza Bruno Bossio esulta sul suo blog. Avanti sulla strada dei diritti. Quali? Questo è il punto. I diritti dei dipendenti di Calabria Verde, fondata nel 2013 per sistemare in un unico carrozzone i vecchi forestali dell'AFOR, i riciclati delle comunità montane, gli addetti alla sorveglianza idraulica, passati dal part-time al tempo pieno con raddoppio dei costi. Forse loro. O i diritti dei cittadini italiani che si fanno carico di queste spese di assistenzialismo puro e ancor più dei cittadini calabresi ai quali dovrebbe essere garantita la possibilità di vivere senza l'incubo che al primo nubifragio venga giù tutto? Ecco perché poi Gian Antonio Stella racconta che a fronte di queste spese non ci sono le ruspe, ce ne sono 3, c'è la panda con l'assicurazione scaduta, non ci sono i mezzi e poi quando piove viene giù tutto. E alè! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Milan, quante chiacchiere che dite al mattino. E va bene, chiacchiere spero sane, spero non so se sane, forse insane, però almeno così siete un po' informati. Ora però andate a lavorare, no? Continuate ad ascoltare mentre andate a lavorare la rassegna stampa. E che cosa ci regalano i giornali, cari ascoltatori? Ci regalano il dibattito solito su questa letterina. Allora è arrivata, non è arrivata la letterina, non è ancora arrivata, ma arriverà da Bruxelles. Arriverà oggi, racconta Beda Romano sul Sole 24 Ore a pagina 3. La Commissione europea stava ancora valutando ieri sera se e come inviare al governo italiano una richiesta di maggiori informazioni sul progetto di rilancio che Roma ha presentato a Bruxelles a metà ottobre. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, la comunicazione è stata redatta e valutata dai capi di gabinetto dei 28 commissari dello stesso esecutivo. La palla è poi passata al presidente della Commissione Juncker, che doveva decidere ieri sera l'opportunità o meno di inviare una richiesta di informazioni che ha una valenza politica oltre che un contenuto tecnico. Se si salta sul Corriere della Sera c'è scritto che la lettera arriverà stamattina. Per il momento è una richiesta di chiarimenti, come da prassi, una garbata lettera firmata dai commissari responsabili dell'euro, Dombrovskis e Moscovici, per evidenziare la deviazione significativa dei conti pubblici dal percorso verso il pareggio di bilancio prospettata dai documenti programmatici di bilancio. Secondo Repubblica, anche arriverà stamattina ed è un via al braccio di ferro perché l'Unione Europea darà 48 ore di replica al Tesoro. E dunque il ministero risponderà alla richiesta di chiarimento in tempi brevi, già mercoledì sera, al massimo giovedì mattina. Vabbè, l'attesa di questa lettera, agognata lettera. La reazione di Renzi non si fa attendere. Il retroscena più gustoso è quello di Marco Galluzzo, a pagina 6 del Corriere della Sera. Renzi si sarebbe così espresso con i suoi collaboratori. Preoccupato? Chi? Io? Ma scherziamo. Stiamo parlando del nulla, di uno zero virgola, di una manovra che serve all'Italia come all'Unione Europea. Sarebbero dei pazzi se la bocciassero. Autolesionismo puro, un'ipotesi che non esiste, a meno che non si vogliano suicidare. Noi, ha aggiunto Renzi con i suoi collaboratori, abbiamo fatto una legge di bilancio impeccabile, tutta votata alla crescita. Se riprende a correre l'Italia, conviene a tutti. Semmai si occupino della Vallonia, della crisi di un'Europa per cui una piccola regione boccia il trattato commerciale con il Canada. Eccolo qua, il titolo del retroscena è proprio questo: si occupino della Vallonia. E allora voi, cari ascoltatori, direte in questo momento, affaccendate le vostre faccende, ma chi è la Vallonia? Dove sta la Vallonia? Cosa ha fatto la Vallonia? Perché è così importante? Beh, effettivamente l'Unione Europea sulla Vallonia, regione del Belgio, rischia di perdere molto la faccia, perché il Belgio non è in grado tecnicamente di firmare un'intesa importantissima sul commercio tra Unione Europea e Canada, il cosiddetto trattato CETA o CETA, se lo volete pronunciare all'italiana, perché la Vallonia, regione belga, non è d'accordo. E secondo la Costituzione belga, se una regione del Belgio non è d'accordo a un trattato, a firmare un trattato internazionale, questo trattato internazionale, quello Stato, in questo caso il Belgio, non lo può firmare. E quindi per il no della Vallonia, il Belgio non può firmare il trattato e dunque l'Unione Europea non può firmare questo trattato con il Canada. Il Belgio blocca l'intesa Canada-Unione Europea, pagina 5 del Sole, ma anche la stampa dedica una pagina a questo, pagina 7, lo stop al trattato col Canada mette a nudo tutti i guai dell'Unione Europea. E tra l'altro la stampa fa anche un'interessante mezza pagina dedicata a i vantaggi e gli svantaggi dell'approvazione del commercio del trattato CETA per l'Italia, per l'Europa, quale sarebbe l'impatto sull'export, cosa sono i riflessi per l'Italia, quali sono i settori maggiormente toccati dall'eliminazione dei dazi, quali sono anche i motivi per chi si oppone a questo trattato, e soprattutto su questi si parla di un'invasione, rischio invasione di 130.000 tonnellate di carne canadese. Insomma, come tutti i trattati, come il trattato, il TTP, che non è stato firmato, questo trattato col Canada è discusso e il dato di fatto è che una piccola regione sta tenendo tutta l'Unione Europea in scacco. A proposito sempre di manovra, beh, interessante quelle che sono le cifre snocciolate dal Fatto Quotidiano, Marco Palombi a pagina 7. Abbiamo detto dei 180 milioni ai forestali calabresi, 50 milioni invece ai lavoratori socialmente utili della Calabria. Ma il Fatto Quotidiano si concentra anche sui 600 milioni a Vincenzo De Luca, non a lui ovviamente, ma alla Campania si intende. E ancora, i soldi al Molise, 90 milioni al piccolo Molise, a copertura dei debiti verso Trenitalia. E ancora, 500 euro, questo è interessante, cash per ogni profugo o migrante che verrà accolto dai comuni. 500 euro a migrante. Beh, caro Mauro Meazza, qui c'è da fare dei grandi affari. Se facciamo un comune io e te, o una comune, non lo so, 500 euro a migrante, non male. Che dici? Beh, Buongiorno, buongiorno caro Alessandro. Sto scherzando, ovviamente. Perché poi la gente... è un comune, facciamo una provincia. Ecco, e poi prima o poi ci aboliranno, naturalmente. Come, prima incassiamo un po'. Siamo e poi... a quale settimana? 182. Sì. Ecco, non lo dico perché. Invece 193 è il numero del decreto legge fiscale, sai, l'antipasto della manovra, potremmo chiamarlo, l'happy hour della manovra, non so come dire, però trovi oggi su Sole 24 Ore, ad esempio, a proposito di questo decreto legge, quanto ti può convenire la rottamazione delle cartelle esattoriali e multe, tutto quanto a pagina 4, appena prima della Vallonia di cui dicevi poc'anzi, insomma, di cui riferiamo naturalmente con ampio spazio sul Sole 24 Ore. Ti ha scritto per caso il fisco? No, non credo. Perché stanno partendo 60.000 lettere per persone che potrebbero aver dimenticato di segnalare gli affitti, cioè che hanno dato case in affitto e ovviamente incassato, oppure hanno indicato le cifre che non convincono l'agenzia, ma ne riferiamo naturalmente in norme e tributi. Ma non voglio cambiare, guarda, registro, perché oggi è un giorno di grande letizia, perché oggi è il condominio day. Bravo, temevo che non fossi preparato. Sì, è il condominio day, cioè oggi dalle 9 fino alle 18 si possono inviare domande sul condominio collegandosi appunto al nostro portale dedicato del condominio day. Tutte le istruzioni sul Sole 24 Ore di oggi nella sezione di norme e tributi, che leggerai come sempre religiosamente, certo. E lì trovi tutti l'indirizzo da cui collegarsi e anche le modalità per inviare il quesito. Naturalmente poi ci sono anche altre informazioni sul condominio medesimo proprio nella pagina di condominio. Guarda che non è vero che la UE non scrive le lettere, perché una lettera almeno l'ha scritta. A te? Sì, l'ha scritta alla Volkswagen e ha detto: ma non si potrebbe dare qualcosina di più agli utenti danneggiati dal Dieselgate? Ne riferiamo, leggi, ne riferiamo nella sezione di finanza e mercati, che tu leggerai come sempre. Avidamente. Bravissimo. Inoltre, non solo religiosamente, non solo avidamente, ma scrupolosamente, oggi ti recherai in edicola, perché con il Sole 24 Ore c'è... Non lo sai, vabbè, i tuoi diritti, adesso, i tuoi, ecco, me la son il persa, fascicolo, però abbia pietà, due su tre le ho vabbè, sapute, insomma, sì, apprezziamo la buona volontà, via. Grazie. Ecco, c'è i tuoi diritti dedicato alla giustizia, perché appunto a volte si ha bisogno o di andare in lite o magari si può evitare la lite con gli accordi stragiudiziali. E allora trovi queste indicazioni proprio su questo fascicolo. Non cercarmelo al bar, mi raccomando. Potrebbe, non so, esserci una contesa anche con la pubblica amministrazione o magari con un allenatore straniero e non sai bene come uscirne. Tutto ciò premesso, ti voglio segnalare che anche oggi nella parte di imprese e territori parliamo della trattativa sul contratto del settore assicurativo. Per adesso lo scontro pare anche concentrarsi sul lavoro del venerdì pomeriggio. Medita su questo articolo, meditate, e nel frattempo naturalmente, traffico! Ciao Milan, che te mattino mi fuoco! Oh, il grande Angelino, che possino da fuoco anche a te! Allora, c'è un'intervista di 2 pagine a Virginia Raggi, sindaco di Roma, su Repubblica, l'intervista del direttore Mario Calabresi. Virginia Raggi parla, il titolo dell'intervista: non sono perfetta in tutto, ma riuscirò a cambiare Roma. Ovviamente parla a 360 gradi, visto che sono 2 pagine. Intanto, come la dobbiamo chiamare, sindaco o sindaca? Non importa, è indifferente. Visti i problemi di Roma, non mi sembra così importante. I 3 punti su cui mi sono concentrata: trasporti, rifiuti, trasparenza. Ecco, sui rifiuti dice una cosa interessante a un certo punto il sindaco di Roma, ed è questo: devo dire che non ho mai visto così tanti rifiuti pesanti, divani, frigoriferi abbandonati per strada. Non so se vengono fatti dei traslochi, se tanta gente sta rinnovando casa, ma è strano. Ma sta dicendo che lo fanno apposta? No, è un po' strano. Ci sono frigoriferi che invece di essere portati all'isola ecologica vengono buttati vicino ai cassonetti. E non è mica un lavoro semplice portarli lì, non so neanche come facciano. Però il frigorifero è già tutto sfondato e graffittato. Mi sembra strano. E per la terza volta, chi pensa che li metta? Io questo non lo so. Le isole ecologiche ci sono, ora finalmente funzionano, ma abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini. Si vedono ancora cassonetti vuoti e troppi rifiuti appoggiati fuori. Ci sta dicendo che vede un disegno più grande dietro tutto questo. Noi vogliamo ricostruire un sistema abbandonato. Le faccio un esempio. Quando eravamo all'opposizione, sentivamo che si voleva svendere ATAC a Rete Ferroviaria Italiana. Poi abbiamo cominciato a intuire un disegno per andare alla privatizzazione. Ora al Senato c'è una mozione di PD e Forza Italia per commissariare ATAC e farla gestire a Rete Ferroviaria Italiana. C'è un disegno fatto sulla testa dei cittadini. Difende ancora l'assessore Muraro, indagata per reati ambientali. Per quanto ne so, risponde la Raggi, dell'inchiesta, perché nella fase dell'indagine sono sempre presunti reati, ma in realtà lo sono anche se si andasse a processo perché non si arrivasse a una condanna, ma so solo che c'è questa presunta contestazione. Vorrei capire di cosa si tratta e all'esito della disclosure capire e prendere una decisione. Per esempio, vorrei un avviso di garanzia che a oggi non risulta e non so, di cui non so nulla. La cosa migliore fatta adesso, che cos'è? Avere sbloccato le assunzioni delle precarie dando attuazione a una possibilità della legge Madia, risponde Virginia Raggi, che poi dice: non sarò stata perfetta in tutto, qualche sbavatura è necessaria per capire e migliorare. Vorrei avere più tempo per uscire e andare in giro per la città invece che stare riunita qui tutto il giorno. Arrivo alle 9.30, 10 del mattino dopo aver portato mio figlio a scuola, poi c'è il traffico, però resto fino a tardi, una volta ho dormito anche qui sul divanetto, ora ne ho chiesto uno più lungo. Vabbè, insomma, parla di tante cose. E altra cosa, se volete, interessante: come votavo prima del 5 Stelle, più o meno sempre a sinistra, risponde il sindaco di Roma. Mi hanno detto che il PD è nato nel 2006 o 2007, posso dire che ho votato a sinistra, credo di aver votato una volta anche per i Verdi e una per Di Pietro. Virginia Raggi, due pagine di intervista su Repubblica, intervistata dal direttore Mario Calabresi. Mentre la Lega è pronta a un congresso nel quale sparirà una parola: Nord. Non sarà più Lega Nord? Col punto di domanda. Questo si chiede sia il Corriere della Sera che Libero in una pagina. Libero è sicuro, il futuro della Lega sarà senza Nord, e anche Marco Cremonesi sul Corriere della Sera: Lega congresso per togliere la parola Nord, chissà Umberto Bossi che ne penserà, ma il Corriere fa già sapere che sicuramente non sarà d'accordo. I migranti invece, ci sono tante notizie legate ai migranti. Beh, intanto questa dei 500 euro cash prevista in legge di stabilità per ogni migrante accolto dai comuni. C'è da dire che il Ministero dell'Interno fa sapere alla Repubblica: siamo al collasso. Questo è la situazione per quel che riguarda il numero dei migranti. C'è sui migranti questa notizia che mi ha letteralmente fatto sobbalzare sulla sedia. Ricordate Katia Pellegrini, comandante nella Marina, Pellegrino, che è stata anche protagonista di un docufilm abbastanza visto. Colei che ha salvato migliaia di migranti insieme ai colleghi e ora si trova indagata. Ha salvato migliaia di migranti, indagata la comandante eroina. Una pagina del Messaggero, Michela Allegri e Sara Menafra. Sono stati infatti iscritti nella procura quattro degli indagati, nel registro degli indagati, quattro ufficiali, tra loro appunto la Pellegrino, per omissione di soccorso per un naufragio che è capitato al largo di Malta. E secondo Mohanad Jammo, primario di ospedale di Aleppo, che in quella traversata ha perso due figli di 9 mesi e 3 anni, c'è stata una prima richiesta, una prima telefonata alla Marina Militare, che peraltro la Marina Militare non risulta, e i soccorsi sarebbero arrivati troppo tardi. E quindi la Procura di Roma ha indagato quattro ufficiali della Marina per omissione di soccorso. Ecco qua, ma come? Si dice salvano migliaia di migranti e poi li indaghiamo. Va bene, siamo all'articolo più inutile sui giornali. Siamo alla Carta Costa, il premio per l'articolo più inutile sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Ricordate, oggi è mezza pagina sul Giorno dedicata al fatto che ieri nella casa del grande fratello VIP è arrivato Er Pupone, insomma il marito della conduttrice. L'assist di Totti è per il grande fratello. Totti, va da Ilari Blasi nella casa del grande fratello. Ma chi se ne frega!